appuntamento immancabile con il test attitudinale. La domanda di quest'oggi parlava di comparse all'interno di Ritorno al Futuro 2, Ritorno al Futuro 3 di un celebre rocker. Quali dei tre proposti dal buon Roberto Fricantoni era giusto? Forse la numero uno, Alice Cooper? Se avete scelto la prima opzione, avete, ahimè, sbagliato. Ed era allora forse Flea, bassista dei Red Hot Chili Pepper? Ebbene sì, complimenti! Lì. Due punti per la vostra patente davvero rocker. Segnaliamo anche che lo stesso Flea comparve anche in un recente rifacimento di Psycho. Sì, il capolavoro di Hitchcock. E in Paura e Delirio a Las Vegas. Mentre, sempre per restare in casa Red Hot Chili Pepper, il bel cantante Anthony Kiedis comparve in Point Break. Lei ha mai fatto la comparsa? Beh, io me ne ricordo una. Tante volte, nei film storici, soprattutto Scipione l'Africano. Beh, io posso ricordare un cameo. Naturalmente. Il bidello in Paz, quello me lo ricordo. Sì. Giovanotto si contenga, esatto. Dico questa battuta. Se la ricorda ancora? Sì. Che mente, Frank. Certo. E chiudiamo tranquillizzando il buon Ozzy Osbourne, che non apparve mai in Ritorno al Futuro 2, né in Ritorno al Futuro 3. Lo salutiamo. Peccato, comunque. Sarebbe stato bene. Sì. Lo salutiamo comunque. Ciao, Ozzy. Lei si ricorda la battuta, tutte le battute. Sì, me le ricordo tutte. Anche se ho sempre quel timore, sa, prima del Chuck, prima di iniziare, sa, non vorrei fare come quell'attore che doveva dire cielo un cadavere guardando una persona stesa sul palcoscenico e disse... quando toccò a lui inciampò e disse cazzo un morto. Her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Girls can't stand her cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like the Roman chariot race. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her but she leads them on a wild goose chase. You drive like an ace now, you drive like an ace. She'll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Inconfondibile incrocio di voci targato Beach Boys e allegati falsetti, niente male. Fun fun per l'appunto Beach Boys. Siamo ufficialmente nell'ultima mezz'oretta scarsa di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Io, come ogni giorno, segnalandovi il numero di SMS e poi e vedendo i messaggi che scrivete, cerchiamo insieme alla redazione di scambiare la scaletta e se chiedete qualcosa in particolare, temisticamente parlando, autoralmente parlando, cerchiamo di venirvi dietro. Era già da un po' di giorni che avremmo voluto segnalare un evento che si terrà questo sabato 8 di settembre. Quest'oggi al più di un paio di radioascoltatori hanno segnalato la cosa, chiedevano perché non lo stiamo dicendo, allora ne approfitto per farlo adesso. Sto parlando del V-Day organizzato dal buon Beppe Grillo. Per qualsiasi tipo di informazione, visto che sapete che il buon Grillo ultimamente su internet è messo abbastanza bene, trovate tutto su beppegrillo.it. Vado a leggere dal volantino di presentazione di questo V-Day. L'8 settembre, scrive Beppe Grillo, sarà il giorno del Vaffanculo Day, oppure V-Day, una via di mezzo tra il D-Day dello sbarco in Normandia e V come vendetta. Si terrà sabato 8 settembre nelle piazze d'Italia per ricordare che dal 43 non è cambiato niente. Ieri il re in fuga e la nazione allo sbando, oggi politici blindati nei palazzi immersi in problemi culturali. Il V-Day sarà un giorno di informazione e di partecipazione popolare. Da quello che intuisco si raccoglieranno anche le firme per una legge di iniziativa popolare che si chiamerà, la proposta è di chiamarla Parlamento Pulito. Ci sono tre punti fondamentali così riassunti. Il punto 1, no ai parlamentari condannati, quindi no ai 25 parlamentari condannati in Parlamento. Nessun cittadino italiano può candidarsi in Parlamento se condannato in via definitiva in primo e secondo grado in attesa del giudizio finale. Il secondo punto è no ai parlamentari di professione da 20 anni e 30 anni in Parlamento. Nessun cittadino italiano può essere eletto in Parlamento per più di due legislature. Tra l'altro segnalano anche la regola è retroattiva, che è divertente, vabbè. E punto 3, elezione diretta. No ai parlamentari scelti dai segretari di partito, e candidati al Parlamento devono essere votati dai cittadini con la preferenza diretta. Ho semplicemente letto il volantino di presentazione di questo V-Day. Se andate su beppegrillo.it vedete anche dove ci saranno i banchetti. Intravedevo che saranno veramente quasi in tutte le piazze italiane. Segnalo sicuramente in Piazza Maggiore a Bologna il concerto degli Schiantos, che giustamente avendo qui il buon Freak segnalo. E poi c'è Pisa, Torino, Livorno, Firenze, insomma un po' tutte, anche tutte le città toccate dal segnale di Rock FM avranno il loro banchetto. Se siete interessati andate a farci un giro, io la segnalazione l'ho fatta. Mi spiace non essere stato invitato, questo ve lo dico proprio apertamente. Potevano invitare Pane, Burro e Rock and Roll, avremmo messo un banchettino, una chitarra acustica, si faceva qualcosa. Mi ritengo offeso. Però mi ascolto Janis Joplin insieme a voi e mi passa subito. 8 e 36 minuti primi. Get it while you can. Ci sta anche bene, no? Come on! In this world, if you bring the papers down, you know everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby. Not even your brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. I take it while you can. Taking a gamble on a little song. We'll be right back. you can. Get away you can. 8 e 39 minuti primi, Janis Joplin. Che come ve la gustate qui a Rock FM? Non ve la gustate da nessun'altra parte. Vedo feedback positivo di questa segnalazione del V-Day, che tra l'altro ho infrasentito promozionata anche da altre parti, in posti ben più grossi di Rock FM, e fa piacere insomma che girino queste segnalazioni. Intanto vediamo questo messaggio di Silvia, mi piace parecchio. 2 punti per la tua patente da vero rocker. Con i Beach Boys nelle orecchie, lambrate, mi sembra la California. Saranno le allucinazioni dovute all'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll? Ci sta, Silvia, può essere. A proposito della patente da vero rocker, quest'oggi non so come mai, ma vorrei spegnere questi focolari dal principio. Più di una persona scrive: ragazzi, allora io me la stampo la patente da vero rocker. Vediamo di non dire queste cose. La patente da vero rocker sarà pronta a breve, ve l'abbiamo promesso, lo faremo. Io e il buon Fricantoni ci siamo autotassati, arriverà. Abbiate un po' di pazienza, abbiamo tempi biblici, come è giusto che sia. Che succede? Cos'è? Dov'è? Com'è? Una luce! E non è il sole. Ah no. Un'illuminazione, The Band! Yeah. Per chi non avesse mai sentito il momento The Band, è l'apice della stupidità di Pane, Burro e Rock and Roll, dove la stupidità del DJ Ariele si fonde con la stupidità dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici. Fondamentalmente facciamo collettivamente quello che si chiama Air Band, ovvero facciamo finta di suonare uno strumento. Quest'oggi dall'archivio del buon Spadino bisogna anche pittarsi in faccia, perché faremo i Twisted Sister. Vi va di suonare insieme a noi I Wanna Rock? I wanna rock! Da, da. Tell me not to play. Well, all I gotta say to when you tell me not to play, I say no. ormai lo sapete, le frequenze di Rock FM ospitano nel mattino, nel morning show, dalle 7 alle 9, Pane, Burro e Rock and Roll, la seconda stagione che punta molto in alto con l'Ariele Spadino e Roberto Fricantoni. Mi perdoni se non abbiamo ancora la sezione fiati per ospitarla con noi, ma prossimamente sicuramente cercheremo di raccattare un paio di trombettisti, un sassofonista. Amici, sono lusingato e commosso. Un buongiorno a tutti. Anche quest'oggi leggo nei suoi occhi la positività, ed è questa la cosa importante a quest'ora della giornata. Ma certo, tutto può ancora accadere. E tutto può ancora accadere di positivo, amici. Quando lei si presenta con questi plichi di fogli particolari, lo sto iniziando a capirla, vuole occuparsi delle invenzioni minori. Tentiamo da Pane, Burro e Rock and Roll di focalizzare sull'attenzione di questi grandi inventori di piccole invenzioni che un giorno come un altro hanno avuto l'illuminazione e la loro vita è svoltata. Questo potrebbe accadere anche a noi, certo, proprio quest'oggi. Ma questo è lo spirito, proviamoci amici, spremiamoci le meningi, ci sarà pure qualcosa che non è ancora stato inventato. È riuscito in questi giorni a inventare qualcosa, maestro Antoni, o ci parla ancora di storia delle invenzioni? Ci sto provando, non posso rivelare appieno fino in fondo quello che sta nascondendo nel suo garage. Io l'ho capita. vero con vero, il cartello non potete entrare. Lei ha intravisto quando mi ha dato quel passaggio l'altra sera, ma ahimè devo lavorare ancora in incognito. E allora è la storia ad aiutarci. Esatto, è la conoscenza che ci rende liberi. Non avrei saputo dirlo meglio. Sono un suo fan! Andiamo ad affrontare un altro dei grandi inventori che hanno fatto la storia delle invenzioni. Pensate, amici ed amiche in ascolto, ci sono uomini che hanno inventato la zipper, quello dei pantaloni, certo, il thermos. Certo. E ci sono uomini come Ezra Warner, che ha inventato l'apriscatole. Ahiaia, il primo dubbio che mi viene su Ezra Warner sull'apriscatole è: ha inventato l'apriscatole prima delle scatole o successivamente alle scatole? Nel senso che riuscire a inventare un'apriscatole prima che la scatola esista sarebbe veramente troppo. Sarebbe geniale, ma troppo avanti. Ma mi perdoni, anche inventare l'apriscatole dopo aver inventato le scatole sarebbe stato un tracollo economico per gli inventori delle scatole stesse, che certo, distribuivano scatole che non potevano essere aperte se non infrante contro delle pietre, probabilmente. Interessante, questo è un po' il quesito dell'uovo e della gallina, esatto, sì, sul quale rifletteremo strada facendo, non prima però di esserci documentati su Ezra Warner. Su Ezra Warner. Facciamo un salto temporale anche quest'oggi e ci spostiamo nel 1858. Prego, 1858, maestro. Pensate, a metà dell'Ottocento, a metà del XIX secolo, pensiamo a quanto erano avanti questi uomini, come Ezra Warner, che è un inventore americano che realizza il primo apriscatole, il quale consisteva in un dispositivo con una lama ricurva che veniva inserita nella lattina da aprire. Ecco, lui si cimentò, adesso lo sappiamo, con una lattina. Sì, e col... Ah, allora magari, esatto, prima ha aperto una lattina e da lì poi è partita la carne in scatola o il tonno. Infatti, l'apriscatole a rotella, presente quello a rotella, certo, sarà realizzato nel 1870, quasi una ventina, poco meno di vent'anni dopo, dall'americano William Lyman o Lyman. Però noi restiamo affezionati ad Ezra Warner, che lo faceva con la lama ricurva. Sì, il primo grande, sì, infatti, il primo grande pioniere. Ma ci può dare indizi su quello che sta inventando lei, Frick? Ha a che fare con le scatole? Non vuole dirlo, sicuramente sarebbe battuta troppo facile dire con la rottura delle scatole, dunque non la dirò. Questa battuta la tengo per me. Ad ogni modo, ne saprete di più. L'importante è che tutti voi in ascolto abbiate recepito il messaggio. Tutti noi possiamo diventare grandi inventori. E me, che c'è? Thank you. got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up a man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. Drinks and don't come home at all. Ooh. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Fa romantico, questa è la chiusura di quest'oggi. Non guardarmi sanguina, è con questo motto che vorrei chiudere la puntata di quest'oggi. Only Women Bleed, che capolavoro, ragazzi. 8 e 54 minuti primi. Siamo pronti a cedere il testimone a Marco Garavelli. velocemente ricordo in chiusura di trasmissione i miei appuntamenti con voi, se lo vorrete, nel weekend. Venerdì sera sarò a Firenze all'Ippodromo con il buon Max De Rieu, e invece sabato sera sarò qui a Milano all'Atomic Bar. C'è una lotta ormai tra me e Spadino per questa chiusura che io non vorrei, ma alla quale lui tiene particolarmente. Miei cari amici, è la fine, termina così la quarta puntata, o l'82esima puntata, chiamatela un po' come volete, di Pane, Burro e Rock and Roll. Archiviamo giovedì 6 settembre. Vi ricordo che tra qualche minuto potrete riascoltare, se vi siete persi parte della puntata, tutta la puntata andata in onda grazie a RadioRockFM.com su internet nella sezione archivio. Andiamo di sigla che è meglio. Ti ritorno domani puntuali alle 7 spaccate qui sulle frequenze di Rock FM. Grazie per essere stati con noi sempre di più. Pane, burro e rock and roll. Mi raccomando, spargete la voce. La tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Grazie a quelli che hanno scritto via mail, via SMS. Very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Caro Garavelli, buona giornata. Buona giornata. Abbiamo 3 minuti da buttare al vento. Allora, meno di ieri è il vento. È decisamente meno di ieri. Tra l'altro non ci sono più gli Scorpions che passano con Wind of Change. Non sono andati. Però ero affascinato ieri dalla giornata limpida. Mi è piaciuta molto. Com'era sul tetto? Sul tetto del palazzo via Locatelli di Rock FM. Senti, come si chiama quella via lì, tra l'altro? Io dico sempre che la finestra via Vittor Pisani. Sono un piscone. Io dico sempre che si affaccia su Piazza della Repubblica. Che è là in fondo. Che dubito là, che tu da qua arrivi, a meno che non hai il collo al struzzo. Ma io ho 5 anni che dico che quella è Piazza della Repubblica. Ah. Questa. Ma tanto loro non lo sanno, ah, beh, io cosa vedo. Qualcuno non lo sa. Invenzione. Va bene, via Vittor Pisani allora. No, dicevo, è un peccato perché se oggi era limpido avevo pensato un monte. Un bis? No, un monte sopra l'Aveno Mombello, dove dicono che si vede addirittura quando è limpido la Madunina. Per chi non lo sa, l'Aveno Mombello è lontanissimo, cioè è sul Lago Maggiore. Quindi volevo provare questa perché esperienza. Perché dici però che là non è limpido oggi, magari in quota. No, è qua più non è limpido. Quindi è quindi difficile. La Madunina non si vede. Non si vede. Okay. Però ieri da qua sopra ho visto la Madunina. Beh, si è vicina però. Sì, infatti. È abbastanza vicina. Senti, lascio a te il piacere di rispondere a questo radioascoltatore. Devo andare a Roma per lavoro, è impossibile non ascoltarvi. Su quale frequenze vi trovo? A meno che in auto non riesca a posizionare un impianto con PC, connessione internet. Non abbiamo frequenze romane. No, non ci sono. A meno che il vento di ieri non abbia spostato le antenne, quintali di antenne verso Roma, ma dubito che la cosa sia accaduta. Bisognava fare un esperimento ieri, secondo me con quel vento ci sentivano di più. Magari Rock FM è una stazione radiofonica, esatto, che col vento va, per fortuna. Vai a prendere. Senti, io vado a farmi il 12° caffè di quest'oggi, ti lascio i radioascoltatori e le radioascoltatrici, trattamele bene. Sicuramente.